בלו טיים לייב. 60 secondi dopo le 21, ancora qui, buonasera da Agostino Spolaore, questa è Blu Radio Veneto e anche oggi giovedì 28 febbraio, ultimo giorno di febbraio e tra l'altro anche l'ultimo giovedì, il consueto appuntamento con il live è immancabile dalle 22, dalle 21 alle 22.30, sempre qui in diretta. Ovviamente questa sera abbiamo un altro artista da Genova, ma chiude il cerchio dei genovesi. Ne abbiamo parlato anche ieri sera, poi tra l'altro con il discorso di Bruno Lauzi. E buonasera anche a te, Maurizio. Buonasera, Agostino. Stai bene? Sì. Ti vedo in ottima forma. Sì. Beh, insomma, quando sei seduto qui davanti a... Siamo tutti in ottima forma. Poi sai, è un mondo che ci piace, ci appassiona e lo facciamo veramente con molta gioia e molto piacere. Vi ricordo il nostro sito www.bluradioveneto.it, lì ci potete ascoltare in streaming, come sta facendo una mia carissima amica dal Molise, ma la salutiamo dopo quando ascolteremo Michele Savino. Vi ricordo, dicevo, lo streaming, lì ci ascoltate 24 ore su 24 in diretta assolutamente tutti i giorni. Potete ascoltarci e potete anche leggere i vari eventi, le recensioni e quant'altro inerenti alla nostra regione, ma le recensioni invece riguardano tutti i cantanti che passano in questa emittente, fanno i live e anche qualche recensione di qualche disco non guasta a volte, potete trovarlo tranquillamente. Quindi c'è di tutto e di più sul nostro sito. Poi le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenze, lì ci ascoltate ovviamente via radio, insomma, come si suol dire. E poi i nostri numeri telefonici, quello in studio, lo 049-875-6423. E invece se volete mandare qualche sms al nostro artista di questa sera e chiedere qualche informazione, qualche delucidazione, insomma quello che vi può interessare, vi ricordo il 346-2320-033. Come dico sempre, se volete risparmiare anche gli sms, potete scrivere nella mia pagina di Facebook, che io sono tutte le volte collegato in diretta qui anche su Facebook, quindi potete scrivermi tranquillamente, io leggerò e poi rivolgerò la eventuale domanda all'artista che ogni giovedì c'è qui in diretta. Oppure potete scrivere nella pagina di Blu Radio Veneto, oppure dell'artista stesso, in questo caso Michele Savino, oppure anche sulla pagina di Maurizio. Ma Maurizio, magari sei un po' più distratto. No, sono molto distratto. Il nostro direttore artistico che segue e comunque tu sei nella forza dei leoni, esatto. Non potresti, insomma. Vabbè, ho detto tutto quasi, insomma. Vi ricordo anche le nostre pagine di Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto 1 e l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che salutiamo, il nostro direttore artistico, al quale ho condiviso 2-3 giorni a Sanremo splendidi, e lo voglio salutare caramente. Magari Alberto ci torniamo anche l'anno prossimo. Credo di aver detto tutto, è il momento di presentare Michele Savino. Ciao Michele, benvenuto a Blu Radio. Buonasera a tutti gli amici in ascolto e ovviamente buonasera anche a voi. Grazie, abbiamo, Michele. Abbiamo chiuso il cerchio, abbiamo ospitato un sacco di genovesi, Michele, che poi tra l'altro parlando così fuori diretta ho scoperto che gran parte passano nel tuo studio. Sì, ho avuto il piacere di collaborare con tanti artisti di quelli che avete ospitato e sono molto contento, perché alla fine è una città grande ma neanche poi tanto, ci si conosce tutti e si condivide l'amore per la musica, il fatto di inanellare le parole e le note insieme, quindi insomma è veramente una gioia. E poi tra l'altro, appunto, quando poi si gira, però alla fine ci si ritrova sempre, quindi avete ospitato appunto tutti dei nomi con cui ho avuto il piacere di suonare, collaborare, ed è un bel movimento nella nostra città, portiamo avanti con umiltà, però la portiamo avanti questa tradizione. Sì, esattamente. C'è di mezzo il mare? Ma forse sì. Perché tutti dicono la stessa cosa, cioè il mare ci ispira moltissimo. Il mare sì, il mare può servire, perché devo dire la verità, ci si accorge quando non ce l'hai. Perché io ho fatto un periodo a Milano e poi ritornavo, dico ma questo mare qui ce l'hai sempre davanti, e poi dice vabbè, ma sembra una cosa scontata. Invece poi quando ritorni anche lo smog ha un odore diverso. Sì, è giusto. Ma ce l'avevano detto anche altri musicisti, sono venuti qua, che... il mare, quando sei lontano da Genova, quando ritorni a Genova, ha tutto un altro odore. E lo smog ha un odore diverso. E c'è poco da fare. Vedi che anche quello... Vuol dire, sì, influisce nel senso positivo. tu sei un personaggio, un musicista, che ama essere definito un pianista cantautore, perché tu, il tuo strumento cardine è il pianoforte. Sì. Però musicalmente sei formato in due fasi. Una prima fase è quella classica, perché i tuoi familiari sono professionisti, sono musicisti professionisti. Ma una seconda fase che a me interessa di più, hai detto una cosa bellissima: consumo cultura pop con l'appetito degli autodidatti. Sì, cultura pop, cioè hai mischiato la cultura pop, cioè il pop nel senso popular, con la musica classica. Certo, perché allora sì, allora come tutte le cose c'è la fase, l'eredità che uno riceve, e poi quando il momento in cui tu decidi di cercare una strada e di farlo guardando alla cultura pop, che per me, diciamo, è stata una grandissima fonte di ispirazione, perché in realtà che cosa di bello il pop? Che il pop è un punto di partenza per infiniti rimandi. Cioè, io non so, prima fuori onda parlavamo degli artisti, le influenze, eccetera, ma tu, partendo da qualsiasi punto della storia del pop, riesci a ricostruire, non so, tutto un genere musicale, ma anche l'ambientazione dell'epoca, per dire, non so, parlavamo di pop inglese, sì, la esatto. Moda dell'epoca, no? La moda, i film, la cultura, quindi è uno straordinario punto di partenza. E io devo dire la verità, sono anche nato in un periodo dove attraverso internet sono molto facilitato, perché certo, chi ha curiosità può veramente trovare anche, forse anche troppo, ecco, e quindi magari non c'è tanto tempo di metabolizzare, però ho approfittato del momento storico particolare in cui ci troviamo per cercare proprio tutte le cose verso cui potevo avere una sintonia e cercare di introiettarle, di metterle poi nelle mie composizioni. Esattamente, quindi hai cominciato a avere l'idea, a ragionare del progetto che poi tu hai costruito incidendo questo EP. Ma l'EP, cioè la base di questo EP è dovuta al fatto che hai suonato dappertutto, hai continuato a suonare, perché ti piace suonare. Ah, sì. Certamente, perché sono arrivato a questo EP dopo tutto un periodo, vabbè, a parte diciamo i gruppi in cui perché ho suonato. Hai suonato la chitarra nei gruppi, però. Sì, perché quello è il discorso. Sì. Possiamo dire ai nostri ascoltatori perché la gente suona la chitarra nei gruppi? Allora, perché suona? Perché il pianista non sta in piedi. Esattamente. Sta sempre seduto. Ecco, sta sempre seduto, quindi già è poco rock. È poco rock. È poco rock. Perché il mondo si divide poi in quelli che suonano la chitarra e quelli che suonano il pianoforte. Esattamente. Però il pianoforte non lo puoi portare in spiaggia, e quindi è un problema. Poi se devi suonare roba alla, non so, Placebo, Smashing Pumpkins, insomma... Il pianoforte non ci sta e non ci sta. Insomma, bisogna... E poi... Voglio dire, al liceo anche poi ne puoi far casino. Il pianoforte si presta poco. Con una bella elettrica fai casino come sì, vuoi. E quindi, insomma, ci vuole quel sano gusto del baccano. Però poi a un certo punto ti svegli e dici: ma guarda, io però vorrei cominciare magari a cantare in italiano, vorrei cominciare a raccontare delle storie che sento più vicine. E recuperi tutta una serie di riferimenti che sono, diciamo, quelli, per quanto riguarda l'Italia, diciamo degli artisti anni 50, forse pre-rock, per dire, non so, Renato Carosone. Anche Luttazzi hai citato. Lelio Luttazzi, il mio conterraneo. Esattamente. È straordinario. Che dobbiamo sottolineare, cari ascoltatori, che Michele è d'origine, sì, abita a Genova, però è nato a Trieste. Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Trieste. E lui vuole far sentire che lui è nato a Trieste. Eh beh, insomma, diciamo che per tante cose sento ancora questa presenza, diciamo, culturale. E poi, se tant'è vero che anche dal vivo propongo spesso anche delle cover di Lelio Luttazzi, perché magari è un nome che nelle generazioni giovani è poco conosciuto, e quindi se nel mio piccolo posso fare in modo di dare una testimonianza poi del suo straordinario talento come autore, ma come artista a tutto tondo, era un showman, sì, sì, a 360 gradi, ecco. E quindi ho cominciato a riprendere questo tipo di cose mettendoli insieme a dei riferimenti del pianoforte, come dicevamo un po' più rock, e quindi ho cercato di forgiare il mio stile secondo diverse traiettorie, diverse epoche, però cercando un filo che unisse tutto questo. È piacere di conoscervi è quel filo che unisce tutto questo. Certo, sono sei brani dove piacere di conoscervi non è solo il titolo del disco, ma vuole rappresentare anche un po' il mio modo di vivere questa professione, perché la musica è uno straordinario modo di per mettere in contatto le persone. E quindi, se ci pensi, magari uno ascolta una canzone e stabilisce un contatto emotivo magari con una persona, con l'autore che tu non hai mai visto, però stabilisce un contatto. ai concerti capita di incontrare delle persone, noi stessi siamo qui perché c'è la musica che ci ha portato a condividere questo momento anche con gli ascoltatori, perciò piacere di conoscervi e tutto questo, e soprattutto in un momento dove magari la musica viene vissuta più nella cuffia, nel, viene vissuta un po' come ascolto ognuno per sé. Invece... Ma noi siamo rocchettari, Michele, siamo rocchettari, noi siamo rocchettari, il discorso... Non quindi, si fa a noi, cioè si fa anche a noi, però noi andiamo oltre a questo discorso. Bene, bene, quindi insomma vedo che condividiamo anche questo, beh, lui, questo lui modo è di un viverla. Rocchettaro da, dalla punta dei piedi alla punta dei capelli. Sì, non, è, non ne ho tanti, però non ne ho tanti. Beh, quindi la dimensione appunto della, della condivisione tu la potrai capire benissimo, certo. Perché insomma poi anche grazie alla musica e alle canzoni nascono amicizie, amori e tutto quanto, quindi è una delle cose belle della musica. Senti, ascoltiamo qualcosa già di tuo, io direi a questo punto. Direi di sì, direi di sì. Allora, il primo brano del disco è un brano che è Il Cornicione, e che si intitola appunto Il Cornicione, è una storia un po' particolare perché è il brano più vecchio di tutti, perché addirittura la prima stesura l'ho fatta in seconda media. Oh. Sì, sì, sì. Tu sei giovane però, un po' di tempo. Perché c'era questa storia del, di questo, sai... Ogni famiglia ha un parente un po' strano, no? E in casa mia c'era la storia di questo parente che una volta aveva un po' fermato tutta la città perché si era messo su un cornicione e passeggiava su questo cornicione. Ah, però. E quindi da lì ho avuto, mi è venuta questa idea di avere un po' questa, costruire questa piccola metafora un po' sulla, sulle decisioni e sulle persone che stanno un po' in bilico. E quindi insomma direi che lo ascoltiamo allora. Ok. Sai che cosa c'è? Che nella vita a volte è meglio non sapere. Mi ritrovo qui in equilibrio, stando attento a non cadere. Lei mi seguirà per tutta la città, ha giurato che me la farà pagare. Sai, la vita è strana, fa correre e volare, ma a volte ti ritrovi sopra un cornicione. Sai, la vita è strana, la testa fa girare a 30 metri sopra il mare. Risolviamo insieme mano nella mano, è difficile fare pace al bordo dell'ottavo piano. Sudo freddo sì, ho le vertigini, dai fammi scendere, troveremo poi una soluzione. Sai, la vita è strana, fa correre e volare, se ti ritrovi sopra un cornicione. Sai, la vita è strana, un circo quotidiano, ma almeno tienimi la mano. Sopra il cornicione impari la lezione, che troppo spesso non c'è torto né ragione. Sai, la vita è strana, è tutta una conquista, il tuo punto di vista è quello dell'equilibrista. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, come accennato all'inizio, io devo salutare una carissima amica dal Molise, si chiama Antonella Mastrangelo, le voglio un sacco di bene, so che lei è una grande, grandissima come dire, ascoltatrice di Blu Radio Veneto, questa sera ci sta ascoltando in diretta lì a Campobasso, quindi la salutiamo caramente. Ciao Antonella, un bacione, un abbraccione grande grande grande e buon proseguo l'ascolto di Blu Radio Veneto. Però ti porto i saluti anche di un'altra, questa è una tua amica. Sì? Sì, si chiama Elisa Padri e dice che il cornicione è la sua canzone preferita e ti saluta, ti sta ascoltando. Ah, ciao ciao ciao Elisa. Quindi hai già due persone che ti stanno ascoltando. Benissimo, e benissimo. Quindi già si sono fatte sentire. Quindi Cornicione abbiamo detto che è un pezzo molto divertente, si può canticchiare, come tu hai detto, fischiettare, però si deve pensare anche, un testo che fa pensare. Cioè la facciata divertente poi racchiude un ragionamento. È certo, questo è un meccanismo che io cerco sempre nella mia musica ma anche nella vita, perché sono convinto che spesso le verità o i ragionamenti non debbano per forza essere presentati in maniera pesante, ma ci possono essere due facce. Tu ti puoi fermare e canticchiare la canzone e invece puoi anche dire: guarda, è una situazione in cui io mi sono trovato, e puoi cominciare anche a identificarti e trovare la situazione in cui sei stato tu su quel cornicione immaginario. E anche gli altri brani del disco cercano, anche dove ci sono i momenti più riflessivi, ma di non vedere mai il bicchiere mezzo vuoto, cercare una via sempre di speranza e di cercare di rovesciare sempre le situazioni, perché secondo me, insomma, se si vede la realtà da un punto di vista positivo, poi le cose belle ci capitano anche. E quindi vabbè, il cornicione è proprio il brano più esemplificativo a questo proposito, ma poi ascolteremo anche degli altri. Certo, certo. C'è questo meccanismo. E certamente, una cosa che tu hai detto, bello, secondo me interessante, mentre il pezzo andava, cari ascoltatori, dobbiamo sapere, perché il musicista, quando il pezzo va, racconta come viene formato, si apre. Ha detto che essere virato, tra virgolette, alla Caputo, questo swing molto facile, non era proprio così all'inizio, vero Michele? Sì, sì, perché diciamo che il brano si è caputizzato nel corso degli anni. Bello, caputizzato. Si è caputizzato, perché quando io la scrissi questa canzone, in realtà c'era un altro autore più recente che mi aveva, diciamo, dato l'idea, che era Nicolo Fabi, e poi, perché c'era questa canzone, appunto, dove lui si chiamava Dica, e anche lì giocava su questa cosa. Poi chiaramente, andando avanti poi nell'arrangiamento di Fiato, la prima cosa che tutti dicono, cioè: ah sì, questo brano qui è un po' alla Caputo. Io lo prendo chiaramente come un grandissimo complimento, perché uno degli autori italiani che mi piacciono e che secondo me ha trovato una maniera molto personale di lavorare con il linguaggio, con la lingua italiana, che è sempre una brutta bestia per chi scrive, e poi soprattutto di recuperare queste atmosfere swingate in un'ottica moderna. Questo è un brano che io ho ripreso e che certamente vuole anche ricollegarsi a quello che dicevamo prima, cioè tutto lo swing italiano, questo modo, anche se vai a vedere, ironico che aveva anche un altro nome che dicevamo prima, perché anche per dire, non so, i testi di Carosone, di Luttazzi, avevano questa componente, anche di ironia e di guardare alla realtà in quel modo un po' particolare. Quindi sì, sono tutti quei riferimenti che sono circolari, ritornano sempre. Hai notato una cosa, Agostino? Dimmi. Lui che lavora in uno studio di registrazione sta spiegando l'ottica, la colorazione dei pezzi, una cosa molto diversa, è interessante. Stai spiegando agli ascoltatori la colorazione dei pezzi, come i pezzi vengono costruiti, e quello a me interessa particolarmente, e secondo me anche agli ascoltatori, perché tutto sembra facile quando tutto si sente, ma bisogna vedere cosa c'è dietro. Beh, sai, è sempre una sfida importante, soprattutto quando da un lato i brani sono i tuoi, e c'è un rischio grande, perché per esempio io quando vado in studio ho tutto il brano in testa, allora succede che il fonico, che salutiamo, Rossano Villa dell'Ilari Studio di Genova, lui mi guarda e mi dice, si mette la mano nei capelli, perché dice: qui non ne usciamo più, perché io ho sempre, tipo, non so, 40 sovraincisioni qua là eccetera, quindi il lavoro magari è più quello di togliere, di scremare. Però allo stesso tempo cerchi di dare una veste che poi è quella, perché alla fine quando tu arrangi un brano non è una cosa che può essere, se, per come la intendo io, ci sono molti autori che dicono la canzone è solo il testo e la musica. Sì, certamente ci deve essere un testo e una musica forte che comunichino e che stiano in piedi da soli, però anche l'arrangiamento è un po' come il vestito, cioè, noi andiamo vestiti e cambia se uno si mette un bel completo o se si mette la tuta che usa per andare in casa, no? Certo. Ecco, e quindi in questo, nel lavoro che io ho fatto su questi brani, poi ogni brano è molto diverso e ha una veste, perché proprio lo scopo dell'EP è quello di dare sei facce diverse, sei atmosfere per dire signori, io so fare questo. E poi nei capitoli che verranno successivamente, poi ci saranno altre sfumature, però diciamo le linee direttive principali della mia ispirazione sono queste. Interessante questa discussione. Sì, è una disquisizione notevolmente interessante, perché ripeto, spiega perché alla gente in modo semplice, ma spiega cosa vuol dire essere musicista e che scrivere i propri pezzi. Eh sì, è quello importante. E scriverlo anche, fare gli arrangiamenti. Esatto, fare gli arrangiamenti, come giustamente hai detto, è un vestito. È una doppia veste tua, tra l'altro. Sì, perché io ho curato. Ma in quale ti ci vedi di più? Come arrangiatore o come musicista oppure come cantautore? Guarda, non ti saprei dire, perché sono tutti dei lati, che sono in comunicanti tra loro. Io mi trovo per esempio a dover lavorare su dischi di altri artisti e quello è un lavoro che è ancora diverso, perché devi avere, innanzitutto devi fare un po' lo psicologo, perché devi capire, ci sono alcune cose che magari la persona non accetterebbe mai, e alcune soluzioni devi cercare di capire, e poi devi avere anche il rispetto, perché entri in un'ispirazione diversa. Però quando poi riesci a creare qualche cosa e magari riesci a trovare delle sfumature che la persona non immaginerebbe nemmeno, è un lavoro, e fai il sarto per qualcun altro. Vedi che siamo sempre nella metafora dell'abbigliamento. Dell'abbigliamento, del vestito. Bene, adesso però sentiamo lui nella parte... Nel mio vestito. Nella parte cantautorale tua, insomma. Benissimo. Cosa ci fai ascoltare? Allora, io direi che potremmo ascoltare... adesso poi vi faccio un brano live, perché oggi ci sarà un'occasione più unica che rara di sentirmi con la chitarra. Cos'è? Se non lo fai mai. Perché tu suoni il piano. Sì, perché io sono pianoforte, quindi... proponiamo anche questi pezzi così... Nudi e crudi. Come nascono? Sì, come nascono. Niente, allora io direi che adesso... Però adesso cosa sentiamo? Qualcosa dal disco? No, dal vivo. Dal vivo. Allora, questo brano qui si intitola... è il terzo brano del disco, che si intitola Se potessi dirti tutto, che è un brano particolare perché racconta... è sempre una riflessione tragicomica, perché racconta di un problema che tutti hanno avuto, cioè la verità. Dire la verità a una persona a cui si vuole bene in un momento... particolare, questo lo scopriremo nel corso del brano, e il dilemma, appunto, dico la verità oppure taccio a fin di bene? Questo ognuno saprà darsi una risposta, e nel frattempo io ve la canto. Se potessi dirti tutto sulla tua futura moglie, mi diresti che son matto, che il cervello mio si scioglie, e invece io, il tuo migliore amico, ti devo dire che lei ti sta incastrando nel suo gioco. Se potessi dirti tutto, quanti irritanti era l'aria manderei. Per amore lei ti chiede di continuo sacrifici, i diamanti resteranno sempre i suoi migliori amici. La vedo già tra tutti gli invitati, agiterà le mani coi suoi 103 carati. Se potessi dirti tutto, cameriere, prego un altro whisky dry. Scusami se biascico, ma un piede sullo strascico inavvertitamente lascerò la la la la la la la la. Il vestito farà strap ed anche il prete arrossirà e la cerimonia all'aria se ne andrà. Pa pa pa para para para pa pa pa pa pa pa pa para para pa pa pa pa pa pa para para para pa pa pa pa pa pa pa para para pa. Lei è bella, lei è dolce, lei ti chiama Pucci Pucci, tu desisti, tu protesti, ma poi ti pieghi ai suoi capricci ed un bel dì si sentirà un po' sola. Non vedi che fa l'occhiolino a quello in quarta fila? Se potessi dirti tutto, la tua vita intera all'aria manderei. Scusami se biascico, ma un piede sullo strascico inavvertitamente lascerò. Oh, oh, oh, oh. Il vestito farà strap e tutta nuda la madame. I suoi mi seguiranno, oh cavolo che danno, caro amico adesso a gambe me la do. Ah, bellissima, molto divertente, un Dixieland a go-go. Sì. Poi, insomma, nel brano, nel disco l'abbiamo proprio arrangiata, no? In questo senso, cercando di far venire alla luce questa atmosfera un po' da Ridolini. Sì, esattamente, da Ridolini. Da Ridolini. Però dobbiamo sottolineare una cosa, che nel brano c'è uno straordinario Alessandro Ruggero, dell'Orchestra sì, Bagutti. Sì. Alessandro è stato veramente... ho avuto il piacere non di conoscerlo, ma di rincontrarlo, perché noi eravamo compagni alle medie, al conservatorio di Genova, poi ci siamo persi per una serie di cose eccetera, poi ho detto ma guarda, ma io ho scritto questo brano, mi piacerebbe tanto, dato che poi tu ti sei specializzato in questo particolare genere, vieni dai, che così approfittiamo anche che sono quasi ormai 7-8 anni che non ci vediamo, è venuto in studio e poi ha fatto sia questo sia tutte le altre parti di clarinetto e sassofono del disco, compreso insomma anche ha dimostrato la sua professionalità poi anche in territori molto lontani da quello che è il genere che lui suona, perché insomma si è avventurato nel jazz, si è avventurato in atmosfere anche più soffuse, avremo modo di ascoltarlo anche lui. Quando sei a casa per conto tuo, Michele, che cioè, sei libero mentalmente, diciamo, cosa ti piace ascoltare? Guarda, allora io sono veramente onnivoro, perché mi piace la musica bella, realizzata bene, che trasmette emozioni, quindi posso passare dalla musica classica sinfonica, mi piace molto per esempio, non so, Debussy, Mozart, Beethoven, tutto il patrimonio anche dei miei studi, e poi mi piace passare tutto al anche la canzone d'autore, e anche, guarda, passare anche generi tipo il metal, tipo, io devo dire la verità, guarda, ho avuto la fortuna di avere sempre tanti amici, di cui ognuno era un fanatico di un genere musicale. Io non ero fanatico di nessuno, ma imparavo da tutti. Ecco, bello questo. E quindi io dicevo, ma guarda, io per esempio i dischi, no? Io compro i dischi che non ho nessuno, perché gli altri magari me li passano, no? Me li fanno ascoltare. Quindi, per esempio, nella nostra compagnia c'era un metallaro, che tra l'altro, un metallaro che è il mio più grande amico, che lo saluto, un saluto a Sebastian, e poi c'era il ragazzo che ascoltava punk, il ragazzo che ascoltava Nirvana, il ragazzo che ascoltava qualsiasi altra cosa. Poi io andavo lì, frequentavo i locali, poi andavo... Insomma, era tutto un grande minestrone da cui poi sono emersi i miei gusti, e quindi io devo dire la verità che, tranne appunto gli autori, gli artisti che mi piacciono, ricerco ogni genere a qualcosa che mi trasmette, e devo dire la verità, anche poi nel momento in cui mi trovo a lavorare sui miei brani, penso che poi tutte queste cose riemergano, no? Rientrino nella mia testa e poi in qualche posto nella mia musica c'è. Lo occupano. Ma e se dovessi proprio scegliere tre dischi da avere con te? I tre dischi dell'Isola Deserta. Guarda, sì. Allora, ti direi innanzitutto chiaramente una bella collezione di tutte le opere di, per esempio, per orchestra di Claude Debussy, che è secondo me uno dei massimi autori della musica classica di tutti i tempi. Poi, dato che io vengo da Genova, non posso esimermi di Andrea. No, no, no, no, no, no. Andrea no. De André avremmo, ci sarebbe piaciuto vincere facile. In realtà io vorrei, vorrei portarmi un bel Greatest Hits di Umberto Bindi. Ah, vedi. E vorrei, anzi, io mi vorrei portare tutta la discografia, ma dato che non c'è nessuno che lo ristampa più, esatto, perché non c'è nessuno che ha questo, vuole riportare alla luce questo patrimonio, però io devo dire che appunto Umberto Bindi è stato l'autore che mi ha fatto venire veramente voglia di scrivere canzoni, diciamo, in italiano e di fare il cantautore, perché ho trovato qualcuno con una sensibilità da musicista e ho detto, guarda, però non esistono solo i poeti che mettono in musica, esistono anche i musicisti che poi fanno le canzoni. E quindi Umberto Bindi, e poi il terzo, dai, un disco dei Cure, perché sì, un disco, quale? Quelli un po' più pop, perché, quelli un po' più pop, perché di solito appunto si dice sempre il periodo dark, quelli invece anche secondo me nel loro periodo più leggerotto, e poi ecco, a me piace molto il gruppo come erano loro, che si mette a fare una cosa e va contro i propri fan, che si aspettano invece la cosa ipercupa, iperdepressiva, no? Ma lui ha sempre fatto quello che ha voluto, lui ha sempre fatto quello che ha voluto. E secondo me è riuscito ad essere convincente. Poi i pareri sono discordi. Sì, ma certo, sì, sì. Per esempio, un disco come Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Che è facilissimo, facilissimo tra modo, cioè molto, no, molto, molto melodico, acustico. Ecco, prendeva immediatamente. È riuscito a mettere insieme una malinconia, però dargli una veste pop. È molto gradevolissima, pop, gradevolissima. Decisamente pop. Ma ritornando un momento a Umberto Bindi. Sì. Anche Agostino è d'accordo con me. Parecchia gente che è venuta qua ha citato Bindi. Dobbiamo parlare degli Sismica, che è un gruppo di Padova che proprio continua a fare un discorso di ricostruzione, di pescare nel repertorio di Bindi e di proporre Umberto Bindi. Che Bindi ha fatto tantissime cose, ma giustamente, come hai detto, non è mai stato ristampato perché è stato messo da parte. Certo. Assolutamente, dalla discografia italiana è stata messa da parte per motivi diversi, adesso non stiamo qua a parlare. No, ma certo. Però musicalmente è stato messo da parte, invece era una delle basi del cantautorato italiano. Cavoli. Quello di scusa. Ma c'era chi appunto l'ha definito il George Gershwin italiano. Esattamente. Io devo dire la verità, ci sono tantissimi, ben venga per esempio l'opera di riscoperta. Adesso sono stati riscoperti ultimamente tanti cantautori, mi viene in mente, per dire, non so, Rino Gaetano, Gaber, eccetera. Bindi è una figura, diciamo, un po' più è difficile, però estremamente ricca dal punto di vista musicale. Io veramente davvero vorrei, mi fa piacere questo che mi dici, che ci sono dei gruppo giovani, i Sismica sono giovanissimi. Ecco, ho davvero piacere, perché tra l'altro poi voglio dire, ci sono degli inediti dei Bindi che farebbero la fortuna di qualsiasi interprete. E quindi, dato che certe volte sentiamo delle canzoni che sono un po' fatte dall'oggi al domani, certo, invece c'erano dei grandi musicisti con del grande mestiere e della grande ispirazione, qui stiamo sentendo, e io credo che arriverà un momento in cui anche Umberto potrà avere quello che meritava che dal vivo, per motivi diversi, non ha mai avuto. Certo, e io nel mio piccolo cerco di riproporlo e cerco di dire appunto che, assieme anche a tanti altri autori, è stato lui che ha dato là a me, per dire, guarda che esiste questo modo di fare canzone d'autore, di fare musica. Il mondo non mi ha dato mai. Mia mondo è cominciato in te. Sì, ha molti anni questo pezzo, ma è ancora fresco, sì. Michele. Assolutamente fresco. Tra l'altro, appunto, è stato il mio mondo. Spesso si dice, no? Spesso si dice che certamente grandissimi autori di casa nostra, ma questo pezzo ha fatto sfracelli in tutto il mondo. Sì, esattamente. Tradotto anche, tra l'altro, io da bindomane, diciamo, ho anche tutto il libro, ho un libro che ha ricostruito tutta la sua storia, e addirittura è stato tradotto, se non sbaglio, anche in giapponese e addirittura in sloveno, questo brano. Quindi insomma. Ieri sera abbiamo avuto un amico suo, che ha proprio un amico suo, che è Roberto Giannani, che è il direttore del premio Bruno Lauzi, quindi è amicissimo di Bruno Lauzi, era purtroppo, ed era anche amico di Umberto Bindi. Ecco. Infatti ci ha sottolineato il fatto che lui è morto povero, poi tra l'altro. Sì. Eh sì, purtroppo non ha avuto il tempo, diciamo, di vedere. Io spero, non lo so, credo che ci sono alcune cose che magari certamente i riconoscimenti ognuno li vorrebbe avere quando può, certo, quando può fruirne. Però almeno io molto modestamente ho recepito il messaggio e cerco nel mio piccolo di divulgarlo, perché è un grande artista e insomma. È un grande artista. Un grande artista, punto. Esatto, punto. Non c'è altro da dire. È un grande artista. È un grande artista. Senti, perché volevi essere Umberto Eco? Ecco, passiamo da Umberto Bindi a un altro Umberto. Un altro Umberto. Un altro Umberto che ha avuto un certo ruolo, no? Senti, ti fermo subito. Certo. Facciamo ascoltare la canzone e poi ci dici perché vuoi. Va bene. Certamente, certamente. Allora, come si chiama la canzone? Volevo essere Umberto Eco. Via rasoio, la barba crescerà. Mi dicevi ai tempi dell'università. Sono un umanista disilluso per mestiere, apocalittico soltanto a fine mese. 110 lode, e dopo cosa c'è? Un'opera aperta che dà vertigine, un diario minimo di stress e frustrazione, condensato in 3 minuti di canzone. Col gifi, col caffè. Ma mi sento un gambero in un'era misteriosa. Troverò bel giorno il nome della rosa. Volevo essere Umberto Eco, per trasformare la vita in gioco, volare sopra di un pendolo. Sono le 21.38, siamo assolutamente in diretta qui a Blu Radio Veneto con Agostino Spolaore e con il mio collega, ovviamente sempre fedele compagno di tantissime interviste, caro Michele, lo sai che lui è sempre qui con me. Lo so. E cioè Maurizio Calzavara, e lui è il nonnetto, non possiamo essere senza di lui, ci fa sempre compagnia, vero Maurizio? Ci fai compagnia. Sì, sì, esattamente, sì. compagnia Atea, soprattutto ormai un'unione di fatto, fai parte della tappezzeria, un'unione di fatto. Io vi ricordo il nostro numero telefonico, quello in studio, 049 875 6423, e gli sms invece il 346 23 20 033. Come avrei capito, Michele, noi siamo molto allegri, molto spensierati quando facciamo le interviste, ma è giusto così, è giusto così, assolutamente ci piace essere così tra virgolette leggeri, proprio perché per far sentire proprio agio, insomma, l'artista. Guarda, per la mia musica non potrei chiedere di meglio, perciò. Cioè, messo, certo. Allora, perché vorresti essere questo Umberto Eco? Allora, la cosa è nata perché ci sono, parte dalla riflessione che chiaramente ci sono tanti ragazzi che vogliono, hanno delle aspirazioni, però ci sono tanti altri ragazzi che hanno delle aspirazioni magari che non sono quelle principali, no? Magari, che ne so io, fare il calciatore, fare la modella, fare... Ci sono persone che appunto hanno dei modelli di riferimento un po' diversi, e con questa volevo essere Umberto Eco. Io ho voluto dare una voce a chi magari, non so, una ragazza che vuole diventare come Rita Levi Montalcini, no? Certo. Oppure come magari no, qualcuno che vuole andare sulla luna, vuole fare delle cose che magari, di cui spesso i giornali non parlano perché non sono scandalose, perché non fanno notizia, perché spesso purtroppo sappiamo che sono le cose più becere che fanno notizia. Invece io ho voluto dare voce a un ragazzo che magari studia e vuole e non ha un modello di riferimento di questo tipo, ma vuole essere, vuole assomigliare ad un grande intellettuale, una persona un po' forse atipica per il mondo di oggi. Sì, per questo vuole fare il filosofo, vuole fare il filosofo. E quindi poi è anche interessante perché questo brano, perché chi l'ha sentito, è una specie di testo, una specie di caccia al tesoro, no? Chi è un fan di Umberto Eco può anche magari divertirsi a cercare riferimenti ai titoli delle sue opere, e però anche, insomma, racconta questa storia, questa ascesa e declino di un aspirante ragazzo intellettuale. Li conosce a memoria tutte le sue opere, diciamo che sono diventato un suo discreto conoscitore. Conoscitore, ecco. Esattamente. Bene, come io invece sono sempre curioso dal punto di vista umano, Michele, come le tue canzoni, cioè, come nascono, da cosa prendi spunto, cioè un fatto che ti accade, lo memorizzi, una cosa che vedi, un sogno, che ne so. Ma guarda, io c'è un, ti dico la verità, modo. Ci sono una grandissima fonte di ispirazione sono le conversazioni della gente alle fermate degli autobus. Ah, bello. Che tu ascolti. Sì, che io ascolto, chiaramente, perché mi capita, e quindi anche magari i fatti più strani, più quotidiani, ti capita di ascoltare delle storie, che sono poi le storie che tu in un certo senso trasfiguri poi nella tua immaginazione. Adesso poi sentiremo dei brani che sono nati così. Spesso magari ci sono delle esperienze personali che però non sono mai del tutto, non è mai un racconto. Poi si tende sempre a modificare un po' i fatti, perché diciamo che chi crea non ha l'obbligo di dire la verità. È vero, questo è vero. Però io mi sento molto libero in questo senso, perché anche per dire, no, si dice sempre le canzoni d'amore, ma per chi l'hai scritta questa qua? Per nessuno in particolare, perché in realtà sono delle considerazioni, stati d'animo che qualunque essere umano poi può maturare. E poi ci sono, devo dire la verità, che per esempio io sono molto attratto dall'aspetto paradossale della verità, e certe volte leggi i giornali, e per esempio venendo in qua in treno ho letto, mi sono venuti in mente 4 testi leggendo i titoli di un giornale, perché ci sono dei fatti che sono talmente paradossali che immaginarteli non riusciresti mai. Quindi sono tutta una serie di fonti di ispirazione, però devo dire la verità, la vita quotidiana dà tantissima ispirazione, e spesso le storie che viviamo o che sentiamo raccontate sono anche superiori alla fantasia. Ecco, vedi, quindi non è proprio un paradosso. No. Anche che può essere inizialmente un paradosso, ma poi quando si va dentro alla storia, il paradosso scompare. Mica tanto, diventa una realtà vera e pura. Cosa nasce prima, la musica o il testo? Guarda, nei miei casi nasce quasi sempre la musica. Nasce quasi sempre la musica. Mi viene in mente una melodia. Mi viene in mente una melodia. Spesso costruisco tutta la musica nel famigerato finto inglese, che poi mi crea anche un sacco di problemi per gli accenti. Però dopo, a un certo punto, ci sono, per esempio, delle musiche che hanno aspettato anche 2 anni per avere un testo. perché non riuscivo e invece certe volte invece nascono i primi testi perché sono solo delle rime, dei giochi di rima, no? Certe volte uno trova una parola e allora gioca magari sul treno, sull'autobus a fare le rime, poi viene qualche cosa di sensato, allora si mette nel quaderno degli spunti. Però devo dire la verità, guarda, 95 su 100 sempre la musica. Quindi sei battistiano in questo, perché prima Battisti faceva la musica, poi Mogol faceva il testo. Sì, devo dire la verità che io il mio approccio è molto su questa linea, tant'è vero che per esempio quando ho avuto la possibilità di interpretare un brano di Battisti, che cos'era? Era Una donna per amico, e al premio Poggio Bustone quest'anno. È proprio una figura di riferimento, perché ritorniamo a quello che dicevamo prima, anche le musiche e anche quello che arrangiava Battisti. Battisti era un grande arrangiatore. Ma le canzoni di Battisti, caspita, se sentiamo dei brani ci rendiamo conto che era sintonizzato su quello che si faceva in quel periodo all'estero, ma anzi aggiungeva una sensibilità mediterranea. Ma era molto avanti. Che poi, paradossalmente, all'estero sembrava, suonava esotico, no? Sì, è vero. Sembrano come Una donna per amico, è proprio l'esempio calzantissimo di questo. Eccola qua, guarda. E vedi Agostino. È un classico, è diventato un classico. Classicissimo. Com'è che faceva? Ce la canti, 30 secondi. Allora. Può darsi che non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni sconosciuta. Ti amo forte e debole compagna, che qualche volta impara, a volte insegna. Okay, eccola. Benissimo. Com'è andato al Poggio Bustone? Bene, guarda, è stata una bellissima esperienza, perché proprio volevo essere Umberto Eco, è arrivato in finale e ho avuto... Ma quando ci sei stato? Questa la scorsa edizione. 2012. Sì, 2012, ho avuto modo anche di conoscere tantissimi bravi artisti, proprio tutti i ragazzi che sia nelle selezioni sia poi chi è arrivato in finale, e ho proposto questo brano ed è stato veramente bello. A parte, guarda, devo dire la verità, la straordinaria lo spirito straordinario delle persone di quella terra, perché un'ospitalità veramente meravigliosa. Poi ho avuto modo anche di conoscere questa terra e questa organizzazione, e poi proprio le persone che vivono l'eredità di Lucio Battisti come un patrimonio, cioè è nelle case, nei discorsi della gente, in come loro lo valorizzano. Devo dire la verità, sono rimasto assolutamente colpito da questo. Loro, non la moglie? Questo è un punto un po' controverso. Un po' difficile. È un po' controverso, guarda, però purtroppo quando ci si mette, forse la musica ha più effetto, forse magari nei cuori delle persone che poi nei contratti, nelle cose. Sì. Poi ognuno chiaramente difende quello che ritiene giusto. Certo. Però io ho visto che proprio era un qualcosa che fa parte delle loro vite, e penso che per uno che scrive musica non ci sia cosa più bella, poi di rimanere nel cuore. Certo. Poggio Bustone, sai che forse ci vado anch'io quest'anno, non come cantante, però. Allora, guarda, penso che confermerai quello che ho detto, perché è veramente una bellissima manifestazione. Sì, beh, insomma, poi rivivere le emozioni di Lucio, insomma. Sì. Anche se mi farà un po' tristezza vedere la tomba, insomma, rovinata, piena di immondizia. Mi dicevano, insomma, ci sono tutti i fogli, non è curata, mi hanno detto che è così. Ma io ho visto, in realtà, anche la casa stessa dove viveva, entrando, no? Nel paese ci sono le due statue, no? C'è Lucio Battisti e San Francesco. Entrando nel paese. Sì. E quindi diciamo il sacro e il profano, però d'altronde nella vita c'è spazio un po' per tutto, no? Quindi devo dire la verità che loro, io questa cosa che mi dici non lo so, devo dire la verità che sentivo dire, io non l'ho visto, non lo no, so. Io devo dire la verità che invece la statua mi ha fatto anche un po' impressione, perché siamo abituati, non so, per dire, non so, la statua di Garibaldi, no? Ma Lucio Battisti, che è una persona che abbiamo visto fa parte del vissuto, no? Non nei libri di storia. Vederlo lì nella statua mi ha fatto un'impressione particolare, ecco, dico la verità. Bene, Maurizio. Suoniamo, Michele, cosa ecco. Suoniamo? Allora, devo dire la verità, c'è un filo logico, oscuro ma presente, perché il prossimo brano parla di una cosa Ecco, l'ispirazione giornalistica, perché si parla sempre, non so, ogni settimana esce un articolo che dice scoperto il gene che ci fa essere bravi, scoperto il genere che ci fa essere spendaccioni. Allora io dico, ma ho fatto una riflessione, ma sarà che se esiste il gene che, diciamo, ci fa comportare in un certo modo, la nostra libertà dov'è? Questa è la domanda. E allora il brano si intitola È tutta colpa del DNA. Lo dichiara lo scienziato, intervistato da giornale TV. Ti senti stanco, un po' stressato, la colpa di sicuro non l'hai tu. Da da da da da da da da da da da da da da. E tu ti senti sollevato, che il matrimonio è andato in crisi da un po'. Se vuoi chiamare l'avvocato, consulta il codice genetico. Se ridi male, se mangi poco, è tutta colpa del DNA. Ti piace il miele, sei un infedele, è tutta colpa del DNA. Ti porto in tribunale, vediamo chi si spartirà tutta l'eredità. Di du da du da da da da da da. Lo dichiara anche il prefetto, di fronte a tutte quante le autorità. È una questione di delitto, una questione criminalità. E tu fai poco Latin lover, che la genetica ti inchioderà. Ieri lo chiamavi amore, ma verifichiamo la paternità. Se ridi male, se mangi poco, è tutta colpa del DNA. Ti piace il miele, sei un infedele, è tutta colpa del DNA. Ti porto in tribunale, vediamo chi si spartirà tutta l'eredità. Vediamo chi si spartirà tutta l'eredità. Non era presente nell'album questa parte. Non era presente. È uno di tanti tuoi. È un'esclusiva. Sì, perché dal vivo è un po' che la suoniamo, ma in radio mai. Bene, quindi... noi siamo contenti che tu l'abbia fatto sentire un'esclusiva. Benissimo. Come, in che situazioni musicali la fai sentire? In duo, in trio, eccetera? Allora, come attualmente band? Lo spettacolo che stiamo portando in giro è noi siamo in duo, siamo io. Okay. Dimmi. Sì, io e Stefano Bergamaschi, che è il trombettista e flicornista che ha suonato nel disco e che dal vivo suona una quantità impressionante di strumenti. E quindi portiamo in giro questo spettacolo dove ci sono i brani del disco, degli inediti e poi una serie di omaggi alle figure di alcune di cui. Di punti di riferimento. Sì, punti di riferimento, e tutto inframmezzato anche a dei siparietti, delle gag che costruiamo. Quindi non è una semplice scaletta di canzoni, ma abbiamo l'ambizione di costruire uno spettacolo che sia intrattenimento. Perché spesso magari si dimentica che la musica è anche intrattenimento, quantomeno io non mi vergogno a dire anche intrattenere, non solo con la musica, ma anche con un dialogo, uno sketch, una gag. Al momento opportuno. Che attacchi però tra pezzo e pezzo. Certo, c'è un filo logico e magari attraverso sempre una battuta si trova modo di spiegare qualcosa, lanciare anche uno spunto di riflessione. Ottimo, così. È una cosa interessante, decisamente interessante. Ma i cantautori di una volta anche questo facevano, sempre dal punto, spiegavano alla gente i pezzi, assolutamente, non cantavano solamente, spiegavano, cercavano di far capire alla gente che era davanti, che gli stava ascoltando, com'era costruito il pezzo, semplicemente, doveva essere così, al di là delle battute, eccetera, dovrebbe essere sempre così, spiegare i pezzi alla gente. Dipende, ad alcuni non piace. Io devo dire la verità che se posso magari dare una... Che poi è sempre, no? È sempre un po' antipatico dire guarda che l'interpretazione è questa. Mm. Perché poi uno può essere anche libero. Sì, esattamente. No? È bello anche questo. Sì. Cioè, può essere anche libero. L'altra faccia della medaglia. C'è sempre l'altra faccia della medaglia. Magari quando ci sono proprio brani che non sono molto specifici, bisogna anche la libertà dell'interpretazione. Però dare anche una chiave di lettura magari può essere interessante. Io qualche volta lo faccio dal vivo. Una chiave di lettura che i cantatori qualche volta spesso fanno. Dicono, adesso io stasera, dicono al pubblico, ho cambiato l'arrangiamento, cari ascoltatori, cari partecipanti, l'ho cambiato in blues, per esempio. Certo. La gente può essere un po' così, come l'hai cambiato in blues, però poi capita. Perché si vuole sempre spiazzare. Esatto. Si vuole spiazzare. Lo fa spesso De Gregori con i suoi pezzi. Cavoli, lui è uno molto spiazzatore, professionista. Esattamente, spiazza assolutamente. Ma fa parte del suo DNA anche quello. Tu spiazzi i pezzi. Beh sì, devo dire la verità che alcuni brani di volta in volta li rielaboriamo, anche perché, a parte che è molto facile rispetto al disco, poi di fatto sono riarrangiati in duo. Mm. Però mi piace certe volte, per esempio su questo brano qui, spesso attacchiamo una samba, attacchiamo delle cose, perché è anche bello appunto sorprendere, perché altrimenti diventa la fotocopia del CD o diventa proprio una sfilza di brani e uno si aspetta proprio, cioè, sa già che cosa succede, invece insomma è anche bello dare il gusto dell'imprevisto. Certo. Bene, sono le 21:55, vuoi riposarti per farti ascoltare qualcosa? Sì, disco. Cosa abbiamo scelto adesso? Certo. L'ultimo giorno di stage, dove l'hai fatto l'ultimo giorno di stage? È importante l'ultimo giorno di stage. Ecco, sì, infatti, allora, questo appunto, parlando di brani così riflessivi, e questo è nato perché io ero, mi trovavo sulla metropolitana di Milano, dove facevo questo stage, ho cominciato a fare delle rime, ho pensato, guarda te che scemenza che mi è venuta in mente. Poi sono ritornato a casa e ho cominciato a stendere il testo su questa esperienza, che poi, ecco, se c'è un testo autobiografico è questo, nel senso che è un'esperienza che coinvolge tanti ragazzi e ragazze, anche alcuni non più ragazzi, la precarietà nel mondo del lavoro, però ho cercato di far capire, è molto facile, no, in brani come questi, magari avere degli slogan, una retorica, cadere nel vittimismo. Io invece ho cercato innanzitutto di far capire che in questa realtà ci sono esseri umani, e quindi io, per esempio, le persone con cui ho fatto lo stage ho un bellissimo ricordo, sono persone che mi hanno lasciato una grande eredità dal punto di vista professionale, umano, ma cercare di vedere anche la luce, cercare di avere una speranza poi dopo, perché magari io la vedo sempre ottimisticamente. Se non avessi fatto quello stage non avrei scritto il brano. Certo. No? E quindi magari che ne dite, lo ascoltiamo. Lo sentiamo. Sentiamo. Benissimo, allora l'ultimo giorno di stage. L'ultimo giorno di stage non è un evento alla page, infatti siamo tre gatti in azienda. Timbre e burocrazia, quasi un foglio di via, mille firme tranne quella che conta. L'ultimo giorno di stage non è un evento alla page, infatti il capo, che strano, è in riunione. Che peccato per lui, io col tempo sarei diventato l'impiegato ideale. Ed ora dove si va? Non rispondo più alle domande di chi chiede che cosa vuoi fare da grande. Ed ora dove si va? Porto via le mie cose alla svelta e rimando la vita è una scelta, 3 metri più in là. L'ultimo giorno di stage non è un evento alla page e finisco il mio giro di ruota e riordino un po', sicurissimo che quella sedia non resterà vuota. L'ultimo giorno di stage, nella pausa caffè, un saluto ai miei quasi colleghi. Dai, aggiungimi tu agli amici che hai, fatti vivo se passi dal mare. cosa vuoi fare da grande d'ora? Dove si va? Quanto manca per essere un uomo? Dai gradini e le luci del Duomo ti saluterò. La porta al garage e mi chiedo che cosa rimane a un futuro tabù di una pratica in più all'ufficio risorse umane furgo in tasca dov'è il cellulare. Caro amore, alle 7:15 ritorno da te. Se mi permetti, senza nulla togliere alle altre canzoni, dimmi. Questa è la canzone che io apprezzo, ho apprezzato molto di più di questo disco. Sai, io sono molto romantico in quello che voglio ascoltare, mi piacciono molto le ballate, le cose dolci, insomma, mielate, melenze, come chiamate come volete. E questa è stata la canzone che mi ha colpito più di tutti di questo disco, mi è piaciuto veramente moltissimo. Guarda, io devo dire la verità, appunto, senza nulla togliere perché sono tutti figli miei. Esatto. Però devo dire la verità che quando questa la suono dal vivo, sento che il pubblico, sento di raccontare un qualcosa che tocca tante persone, perché purtroppo, per fortuna, insomma, è una realtà di questi tempi e devo dire la verità che ci sono due brani un po' più lenti in questo disco, il prossimo lo ascolteremo tra un po', però sono anche due sfumature, perché il tentativo appunto di raccontare una realtà di questo tipo, secondo me, insomma, mi riempie di felicità quando qualcuno si identifica, soprattutto in questa storia, perché è particolarmente sentita, ecco. Sì, beh, dobbiamo sottolineare, questo è un pezzo che ha vinto un premio importante. Non sì. L'hai detto, devi dirlo. No, Michele. E un altro concorso a cui ho partecipato quest'estate, l'associazione, allora, il premio Kim del concorso Musica Controcorrente. Esatto. Perché questo qui è appunto un brano a sfondo sociale. Sì, molto importante. A sfondo sociale, appunto, c'è stata anche la premiazione a Roma, dove ho eseguito questo brano assieme ad altri del mio repertorio, perché proprio insieme al insomma, questo brano è stato scelto proprio perché ha avuto questo contenuto particolare e mi ha fatto molto piacere che sia arrivato, perché è un brano veramente che vuole toccare, però vuole cercare di toccare alcuni temi dando un fondo sì. Sempre positivo, e forse ne abbiamo bisogno tutti. Certo, e giustamente mentre il pezzo andava parlavamo con Michele, a questa dimensione cantautorale genovese assolutamente come apertura. Tu hai citato un po' Paoli, un po' Bindi, cioè questo è l'emblema del cantautorato genovese di un certo livello come arrangiamento. Eh sì, questo è il brano più tradizionale. Tradizionale tra virgolette, sì, visto che l'hai scritto, assolutamente scritto a Michele questo brano. No, tradizionale, però appunto volendo, sai, spesso vuoi magari quando hai un brano un po' più allegro, un po' più scanzonato, tendi anche a esagerare. Qui mi sono tenuto anche come arrangiamento molto dietro perché c'era una storia, certo, che doveva essere messa in risalto e permettere anche a chi ascolta di seguire tutta la narrazione del testo. E poi ci sono appunto dei ricami strumentali, però a livello di scrittura e di arrangiamento il brano più classico, ecco, e ho voluto ricollegarmi idealmente a questi grandi nomi che hai fatto, recuperando un po' di quelle sfumature. Posso farti un regalo intanto, anzi due regali. Il primo, tutto lo staff del premio Poggio Bustone ti saluta. Oh, un saluto grande. E saluta anche tutti gli ascoltatori da parte di Gabri, che forse conoscerai. Sì, certo che la saluto. Ciao Gabri. Si ricorda tutto di te perché mi ha fatto un poema bravissimo, da lui fu a messo alla finale con il brano Volevo essere un bel sì, sì, sì, sì, sì, sì. E poi ti faccio un'altra sorpresa. Sì. Pronto? Pronto? Chi è? Ma guarda, io sono un ragazzo ligure, volevo fare i complimenti a questo grande cantautore, vostro ospite, perché è veramente, io credo che sia un ragazzo dalle doti straordinarie sia come persona che come musicista, che sono i fattori indispensabili per comporre una somma che fa la specie, la razza del cantautore vero. Hai capito chi è? Davide. Ciao. Grande Michele, numero uno. Ciao Davide. Senti, mi ha svelato un segreto, Michele. Fa parte del tuo disco che io ancora non ho. Quando me lo fai sentire? Il mio disco volerà molto presto da te. Anche a te. E spero anch'io molto presto. Comunque, è un anno e mezzo che ti aspetto, Davide. No, questo è nuovo, questo è uscito adesso e gode della preziosissima collaborazione di Michele, che mi ha supportato nell'arrangiamento di alcuni pezzi e in generale comunque anche in tutto il disco. È stato un confronto sempre aperto e intelligente che mi ha dato molto. Lui mi ha detto che ha fatto parte appunto del tuo disco, quindi mi ha anche detto che il tuo disco è bellissimo, ma l'ha già detto anche Matteo Conta, anche Zazza, che hanno sentito, e me l'ha detto anche una amica che abbiamo in comune, che per un pelo non ci siamo visti a Sanremo, Davide. Cioè... Lo so, colpa mia. E anche un po' della mancanza di parcheggio durante il festival. Infatti c'era veramente una confusione. Che saluto caramente, che comunque Amelie ci sta ascoltando. Ciao Paola, un abbraccione anche a te. E so che ti ha mandato i saluti da parte mia, giusto Davide? Assolutamente. Ecco. E ci sta ascoltando e ti saluta. Insomma, un po' è anche lei l'artefice di questo numero telefonico al volo che mi sono fatto dare di te. Va bene. Come stai per il resto? Tutto bene? Sto molto bene, continuo a pagare artisti perché ti incontrino e ti dicano che io ho fatto un bel disco. Ma a parte questo esborso economico sto molto bene e da buon genovese. Il disco sta andando molto bene. E spero veramente di fartelo sentire presto e di incontrare i tuoi ascoltatori. Insomma, sei l'unico che mi manca di tutta la lista. Mi mancava Michele, adesso mi manchi solo tu. Proprio veramente tu sei proprio l'ultimo della come dire, della gang, della banda. Insomma, ho avuto dalla Chiara Ragnini a Zazza, Andrea Celeste, Alberto Lupi Musso. Insomma, li ho avuti quasi tutti. Ma io non avrei mai osato venire da voi se prima non veniva Michele. Ah. Quello. Ora posso. Bene, vedi. Bene. Davide, per il resto tutto bene? Insomma, anche il disco mi dicevi che sta andando bene? Il disco sta andando molto bene. Questo non vuol dire che io sia minimamente rientrato dalle spese, però dal punto di vista morale e dal punto di vista della soddisfazione, che forse è quello che cercavo, sono molto contento. Io credo che ci siano delle cose da proporre alla gente, speriamo che ci sia, grazie a te, a altri, i mezzi anche per arrivare a loro. Certo. Beh, insomma, tu sai che le porte di Blu Radio Veneto sono sempre aperte per te, da quasi 2 anni che ti sto aspettando, un anno e mezzo, ancora con le discorse. Sono spalancate. Sì, sì, è stato uno dei primi che ho contattato poi, tra l'altro, Davide, perché ha fatto già prima il disco bello, adesso sono curioso di sentire questo qui, insomma, che mi piace, già prima mi piacevi, figurati con questo che tutti dicono. Senti Davide, volevo chiederti quanto ha influito Michele nel tuo disco allora? Guarda, ha influito tanto, perché io ho un... Così scopriamo anche il lato arrangiatore di Michele. Sì, io sono una scrittura molto eterogenea, molto, scrivo pezzi molto diversi l'uno dall'altro e credo sinceramente che sia un difetto, però se trovi un musicista bravo come Michele che abbia le competenze anche proprio classiche, strumentali, per arrivare a sai che il classico è il mezzo per arrivare ovunque, no? Voglio dire, se uno parte dal blues, dal jazz o dal rock, poi è difficile convertirlo, ma se uno ha le basi invece puoi se ha una mentalità aperta, arrivare ovunque. Ecco, questo è il preziosissimo aiuto che mi ha dato Michele, cioè una mentalità aperta, una conoscenza molto approfondita della musica e del modo di esprimerla, ed è anche un ragazzo molto sensibile, che si è approcciato nel modo giusto al mio modo di scrivere, perché sai che noi cantautori con le canzoni abbiamo un rapporto molto stretto, molto intimo, e quindi poi confrontarsi con un'altra persona sui tuoi pezzi a volte non è così facile, invece se questa persona ha l'umiltà, il rispetto e la competenza di Michele, le cose si fanno veramente molto più facili. Certo. Davide, poi per il bonifico mi mandi i dati direttamente. Ah, ma questo è Michele Savino? Sì. Ah, ma forse ho sbagliato. No, scherzo. No, scherzo. Ma proprio di lui parlavo. Sei sempre unico tu, comunque. Allora, contento sono Michele, cosa ne pensi? Ah, sì, molto, e molto. E per te invece com'è stato lavorare con Davide? Ma guarda, io ti devo dire la verità, avevo sentito il suo disco prima e mi sono reso conto che c'era del contenuto, ma come dicevamo prima, io il suo disco, questo qui abbiamo lavorato, lo sto ascoltando adesso. Bene, no? Con tutte i giochi di parole, le sfumature dei testi, perché certe volte in studio ti fissi magari sul suono, sulla resa, su quella nota di quello strumento. Invece adesso che ho avuto modo di digerirlo un po', no? Di smaltirlo nelle orecchie, veramente ha una dimensione cinematografica. Cioè, a me piace molto la narrazione nella canzone d'autore, e certe volte proprio veramente c'è del materiale per uno sceneggiatore, perché ci sono tantissime sfumature, tantissime, e poi soprattutto devo dire la verità che è un disco dove ci sono tantissimi brani, e devo dire la verità che ce ne sono alcuni anche tra quelli che non ho arrangiato io, che mi sarebbe piaciuto metterci le mani sopra, perché proprio sono dei piccoli romanzi in 4 minuti. È tutto vero? Ha detto 5 volte che dice la verità, speriamo di sì. No, confermo, sottoscrivo quello che ho detto. Insomma, l'importante è che sia venuto fuori un bellissimo risultato, come tutti dicono, quindi insomma sarai contento anche tu, giusto? Assolutamente, assolutamente. Senti, quanto ti piacciono le cozze surgelate, Davide? Le cozze surgelate? Guarda, sono reduce da un'influenza intestinale di una certa entità. Hai già capito tutto? Devi fare un giro a Milano, c'è qualcuna che ti aspetta per gli spaghetti con le cozze surgelate. Esatto, ho dovuto aspettare un attimo. Ma la vado a trovare veramente volentieri, perché ti dà la malva veramente. Sarebbe un onore. Sarebbe un onore, ha detto. Ti sta ascoltando in diretta. C'ho un messaggio diretto con Facebook con Amelie. Una ragazza adorabile. E poi dillo forte, poi dillo forte. Poi insomma, io gli voglio un mondo di bene. Va bene, Davide. Ciao Amelie, intanto la salutiamo caramente. Davide, io ti ringraziamo per la disponibilità. Ti ho beccato al volo così per salutare Michele, perché so che siete molto amici. E credo che gli hai fatto molto piacere. Ma certamente. Certamente. Bene, bene. Va bene, Davide, allora ti aspetto quando vuoi, passa di qua e mandami il disco, e così poi ci vediamo, ci conosciamo di persona. molto volentieri, molto volentieri e molto presto. D'accordo. Davvero, sono pronto a partire. Okay. Ok. Ciao Davide. Ciao Davide. Ciao, ciao, Davide. Ciao, ciao. Ciao, ciao, grazie ancora. Un abbraccio, grazie, ciao. Ciao. Davide Geddo, Maurizio. Davide Geddo, sì, sì, l'avevo capito che era lui. Capito. Michele, come essendo arrangiatore, entra nell'humus musicale di tanta gente. L'arrangiatore non è mica semplice fare l'arrangiatore, che come giustamente tu hai detto all'inizio di trasmissione, non bisogna sviare il contenuto dei pezzi, bisogna solo accompagnare, secondo me, o sviluppare. Ma sì, perché il brano ha già una sua strada. Esattamente. Bisogna cercare di favorire e magari di sai, anche certe volte magari con un autore io vado lì e dico: ma qua che cosa volevi dire? Io ci ho visto questo, va bene? Sempre in quell'ottica di rispetto. Giustamente tu hai detto, è uno psicologo l'arrangiatore. In un certo senso sì, perché rischi di tradire quello che è l'intenzione autorale. Spesso, per carità, ci sono stati dei tradimenti bellissimi, certo. Però nel caso di, appunto, di Davide, io ho cercato, diciamo, quasi sempre ci capivamo perché il mood era molto chiaro dei brani. In qualche caso invece gli ho proposto delle alternative e forse magari anche sotto quella veste lui non ci aveva pensato, però il brano poteva avere un commento, diciamo, diverso, ma sempre rispettando quella che era il fulcro, sì, ho capito, di ispirazione, la struttura. Vuoi suonare qualcosa dal vivo o facciamo ascoltare qualcosa dal disco? Scegli tu. Ma facciamo ascoltare qualcosa dal disco? Quella che tu hai selezionato è Solo Orgoglio. Sì, è Solo Orgoglio. È un pezzo molto importante. Adesso lo sentiamo e poi ne parliamo. Benissimo. Ti fai i complimenti, Antonella. Dice che sei molto bravo. Grazie. Passo veloce, d'improvviso il tuo sguardo. Quanto tempo è passato da quel giorno d'aprile? Con chi sei? Cosa fai? Che inutili domande. Passato ritorna, sai che nodo alla gola, rivedere ogni scena come in una moviola, le carezze rubate, la tua pelle di luna, 100.000 certezze, poi di colpo nessuna. E brucia ancora dentro me, ma è solo orgoglio del cuore, no. C'è solo cenere, il gusto amaro di un perché, ad ogni risveglio proprio con me. È solo orgoglio del cuore, no. sentirò meglio, salgo sul tram e tu non ci sei più. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Un'altra canzone dolce, romantica. Poi c'è questo tocco di tromba che è bellissimo. Sì. Chi è il trombettista qui? Sempre Stefano Bergamaschi. Allora, qui i fiati sono due. C'è Alessandro Ruggero, che abbiamo detto prima, che ha fatto la solo al sassofono. E poi c'è Stefano. C'è Stefano Bergamaschi al flicorno. Sono i miei due fiatisti, assieme al trombone di Rossano Villa, che ha registrato, mixato, masterizzato e suonato anche il trombone. Cioè, voglio dire, si è proprio fatto in quattro. Quindi lo salutiamo da qui e lo ringraziamo. Magari ci sta ascoltando. Ah, perché no? Magari sì. Michele, citiamo anche gli altri che ti hanno dato una mano. Certamente. Allora questo disco ho avuto veramente una squadra di musicisti. C'è Saverio Malaspina, batterista. Citiamo di chi è. Citiamo di tantissimi gruppi, i primi di quali Meganoidi, famosissimo Windows Bar, un sacco di gruppi nell'ambito indie, famosissimo nell'ambito indie, che veramente ha dato la spina dorsale, perché sì, poi la batteria, certo, anche nella canzone d'autore, però è la spina dorsale di tutto. Poi c'è Pietro Martinelli, che è un bassista contrabbasso e basso elettrico, molto, un jazzista molto bravo, giovane, che sta suonando con tutti i nomi, diciamo, di spicco del jazz. Poi c'è Fabrizio Cosmi, grande chitarrista, che è impreziosito con tutte le sue gezzate e la chitarra, che noi giustamente diciamo alla Cosmi. Poi ci sono i miei pianoforti, i miei Rhodes, eccetera. Poi c'è Stefano Bergamaschi, appunto, già citato, Alessandro Ruggero, clarinetto e sassofono. Poi ci sono i cori di Elisabetta Marinucci, che abbiamo sentito nel corso dei vari brani. E penso che di non essermi dimenticato nessuno. No, li hai citati tutti quanti. Per ritornare a questo pezzo qua, c'è il pianismo, cioè il suonare il piano, sì, in forma romantica ma molto energica. Sì. Tuo amore, quindi, e soprattutto Joe Jackson nel finale. Certo. Questi sono i tuoi amori. E poi chiaramente la costruzione del pezzo l'hai fatta a te. Però questi amori che vengono fuori sono positivi. Questo rimando, i famosi rimandi di cui abbiamo parlato all'inizio di trasmissione. Ma sì, guarda, come dicevamo prima, c'è stato il tentativo di inserire il pianoforte in un modo che non fosse quello standard della canzone classica, italiana, no? Esattamente. Un po', non so, non che deve essere un alla Paolo Conte, esatto, un po' gezzato. Un po', ecco, gezzato, no, stavolta no. È un po' delicato anche, no, invece no. Qui io dico, ma scusa, ma ho finito di suonare la chitarra elettrica degli Smashing Pumpkins, prendo qualche modo un po' fisico, un po', perché il pianoforte si può anche maltrattare, non è solo come uno strumento, no, da salotto, come ci insegna la tradizione classica. Come maltrattava classica le tastiere chitarra, ma sono la stessa, ecco, cosa. Ecco, certo. E quindi, insomma, c'è il desiderio di trovare uno stile dove tutti questi autori, appunto, penso a Ben Folds, penso a Joe Jackson, penso anche a cose più per grande esempio, Joe Jackson, mi viene in mente questa è un'influenza che sto ascoltando tanto e che forse si sentirà anche nei nuovi brani. E poi anche per dire, quando il nuovo? Lo sto scrivendo, penso che durante l'estate bisognerà mettersi sotto a lavorarci, sarà un album completo, e quindi adesso sto origliando le conversazioni alle fermate, come dicevamo prima, per uno stimolo, sì, per sì, scrivere uno stimolo cose. E quindi, no, comunque per dire, appunto, tutti questi nomi e tutti quegli autori che hanno messo il pianoforte. Ecco, adesso un nome che mi viene in mente così, per dire, anche Billy Joel, no? Esatto, grazie. che è quello. Proprio messo al centro, cavoli, cavoli. Infatti, quindi tutto questo modo per cercare di proporre qualcosa sempre che stia tra la tradizione, ma aggiungendoci qualcosa di mio. Benissimo, bene, ecco. bene. E quindi abbiamo scoperto già qualcosa. Sì, per poi il disco ce nuovo lo farai sentire. Chiaramente. Certamente. Ci sono già tante storie che sono nell'aria. Ecco, bene. Senti, questo piacere di conoscervi, perché questo è il testo, il titolo di questo EP. Dove lo si può acquistare se qualcuno volesse? Allora, adesso lo si può acquistare scrivendomi alla info@michelesavino.net. Lo si può acquistare e mettendosi in contatto anche attraverso il sito www.michelesavino.net e attraverso la pagina cantautorale su Facebook e su Twitter, dove appunto c'è la copertina del disco, quindi c'è un ragazzo che vi dà la mano e che ha piacere di conoscervi, quindi non ci si può sbagliare neanche volendo. Senti, i tuoi contatti invece? Allora, appunto, i miei contatti, a parte la mail che hai appena detto, allora, la vuoi ripetere? Sì, quindi. sì, info@michelesavino.net, il sito www.michelesavino.net c'è appunto la pagina Facebook Michele Savino, facebook.com/michelesavinocantautore, tutto attaccato, e poi da lì trovate qualsiasi aggiornamento, novità, tra cui appunto il concerto di domani. Domani sera suonerò al Pozzo Garita ad Albisola e sarà un percorso appunto che seguirà la linea di cui abbiamo parlato questa sera, i brani del disco, i brani nuovi e poi anche degli omaggi alla canzone d'autore in un locale che è stato poi una culla importante per De André, per Paolo Villaggio e tutti gli artisti, appunto, non solo cantautori, ma la nostra terra per fortuna è piena di comici, di artisti di vario tipo. Hai qualche nome? Di quello, che farai? Guarda, allora, o è una sorpresa? No, ma assolutamente. Oltre all'omaggio ad Umberto Bindi, poi ci sono dei brani di Lele Luttazzi, Billy Joel, dato che l'abbiamo citato, e poi mi piace sempre un omaggio particolare a Ivan Graziani, di cui recuperiamo dei brani. Sì, Mona Lisa, per esempio, la facciamo in due. E tutte, ecco, è anche un altro autore che mi piace e che un po' si cita sempre il periodo quello un po' più come autore, ma invece la prima fase di Enrico Ruggeri, quella con i Decibel, no? Quella rocchettara. Polvere. Cavoli. C'è la canzone Polvere, giusto? Sì, è quella tutto diciamo la parte dove lui aveva molto queste influenze New Wave, Sparks, un po' paccheggiata. Leggermente sai che è tanto che non sento gli Sparks. Gli Sparks. Avevo il disco, Kimono My House. Esatto, sono uno dei gruppi della mia vita. Gli Sparks erano molto molto bravi, molto intelligenti, soprattutto con sì, bellissimi. Poi lì, voglio dire, come produzione, arrangiamenti, voglia. Vero, dei grandissimi. Ce n'è per così. È tanto che non li sento. Andrò a riprendermi il disco per ascoltare. Sì, Kimono My House è un disco molto interessante. Copertina verde, me lo ricordo ancora. Va bene, Michele, siamo quasi alla fine praticamente. Sì. Però ti faccio un'ultima domanda, che è tanto che non la faccio, insomma, consentimi, me la faccio anch'io, il come si chiama? Quello Marzulliano. Marzulliano. Allora, Michele Savino, chi è? Se abbiamo un'altra ora e mezza... Allora, Michele Savino è un cantautore e un musicista che ama guardarsi intorno e che vuole fissare queste storie e questi punti di osservazione attraverso le note, principalmente. E nulla di più, mi sembra già abbastanza, nel senso che vuole cercare di dare delle chiavi di lettura, come dicevamo prima, la realtà ha due facce, c'è sempre ci sono dei giorni in cui si può sorridere, ci sono dei giorni in cui si può magari anche avere la lacrimuccia, però è importante sempre avere quella leggerezza che nella vita aiuta, sempre in tutti i momenti. Saluto Elena e Francesca dalla Toscana. Ci stanno salutiamo, sì, certo. E poi, Antonella l'abbiamo già salutata, insomma, chi c'è ancora che mi devo... Ah, Michele, un tuo omonimo. Benissimo. Che ti saluta. E poi... Ciao Michele. E poi chi c'è qui? No, vediamo, basta, per il momento no, non ne vedo altri, va bene. Michele, allora, grazie innanzitutto di essere venuto qui questa sera. Grazie mille a voi. Di averci regalato la tua musica, il tuo piacere di conoscervi. E ti aspettiamo con il prossimo disco, insomma, ce la farai sentire. Ben volentieri, molto molto volentieri. I prossimi concerti, a parte domani sera? Allora, domani sera, e poi ci sono delle date che sono in via di definizione, però una sempre nella mia Liguria, il 29 giugno, è un festival a Santa Margherita all'aperto, molto bello, all'interno della rassegna dell'attività del comune, sarà proprio in piazza all'aperto e presenteremo, e forse appunto in quel momento ci saranno già un bel po' di inediti da presentare al pubblico. Che bello. 29 giugno. Bene, Maurizio, noi ci ritroveremo la prossima settimana, giovedì prossimo. No, con me ci ritroveremo martedì, mercoledì e poi giovedì con te. Quindi Blu Radio Veneto continua. Non si ferma mai. The show must go. Sempre chiaro di così. Show live, che ce ne sono veramente tantissimi. Cosa ci regali per chiudere? Allora, il brano con cui chiudiamo tutti i concerti, che è un omaggio alla mia Genova, è un omaggio alla vita, un omaggio a... Infatti vi invito, se venite, la prima cosa che vi trovate, se venite dal mare in traghetto, sono i vicoli di Genova. Giusto, famosi, certo. I famosi vicoli. Bene, io vi auguro un buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Bruno De Veneto, che continuano con Renato Ferro e la sua heavy metal. Parlavi di heavy metal prima, visto. Voi state qui ad ascoltare. Adesso benissimo. Ti farà sentire la di ottimo metal, sì, esatto, sì, sì, la sua musica preferita. E quindi non cambiate canale, ci sentiamo l'ultima canzone vicoli di Michele Savino. Grazie ancora, grazie a te Maurizio, grazie a te Agostino, e salutaci Genova. Ah, non mancherò. Grazie a tutti, ciao, prego. Ciao. Vicoli, sabato sera per i vicoli, cercando un battito di cuore, un odore e un sorso di liquore. Vicoli, la notte allunga i suoi tentacoli e ruba sogni e desideri, pensieri a tutti i passeggeri. Stasera ditemi dove si va, non voglio stare da solo. Il centro storico è un Luna Park, che noi un gioco di ruolo. Ma decidiamoci per carità, giriamo tutti i locali. Quella biondina mi guarda e lo sa, stanotte mia sarà. Vicoli, un calcio dritto nei testicoli, occhi guardinghi e maddalene, sirene e ladri assai per bene. Vicoli, sembra la corte dei miracoli, ma se ci penso spunta il sole sul porto e non mi ero neanche accorto. E per la prossima dove si va? Non voglio stare da solo, sarò simpatico ed eviterò le mie battute al vetriolo su questo tipo di socialità che tu chiami movida. Quella biondina mi guarda però no, barcollo troppo, lascia stare, vicoli, e la mattina dopo i vicoli, la testa scoppierà.